giorni d'estate. Erano così felici di avere di nuovo Mary a casa che le lunghe giornate d'estate non parevano mai lunghe abbastanza per tutto quello che avevano da fare e da dire. Volevano sentire tutto dell'università. E poi leggevano ad alta voce per lei e c'erano da fare tanti piccoli lavori di cucito per rassettarle e rimetterle a nuovo il guardaroba e ancora le lunghe passeggiate nel tardo pomeriggio come una volta. Il tempo volava. Un sabato mattina Laura andò in paese con il miglior vestito di Mary dell'anno prima per cercare qualcosa con cui farle colletto e polsini nuovi. Trovò quel che voleva nella nuova bottega di una sarta e modista arrivata di recente. Mentre le faceva il pacchetto, la signorina Bell, la proprietaria, disse: «Ho sentito che lei cuce bene. Mi farebbe piacere se venisse ad aiutarmi. Se si porta il pranzo da casa, le darei 50 centesimi al giorno, dalle 7 alle 5». Laura si guardò intorno. Era una bella bottega nuova, con graziosi cappellini nelle due vetrine, rotoli di nastri in un armadietto a vetri e pezzi di velluto e di seta sugli scaffali. In un angolo c'era una macchina da cucire con sopra un abito ancora tutto imbastito, un altro era posato su una sedia lì accanto. «Come vedi, ho più lavoro di quanto possa fare da sola», disse la signorina Bell con la sua voce mite. Era una donna alta, con occhi e capelli scuri. Laura la trovava bella. Doveva essere gradevole lavorare con lei. «D'accordo, sempre che mamma non abbia nulla in contrario». «Beh, venga già lunedì mattina, se può», disse la signorina Bell. Uscendo dalla bottega, Laura andò all'ufficio postale a spedire una lettera per conto di Mary. Là incontrò Mary Power, che era venuta in paese a fare una commissione alla segheria. Non si erano più viste dal giorno della corsa in calesse di inizio primavera e avevano tante cose da raccontarsi, così Mary la invitò ad andare con lei. «D'accordo», disse Laura, «così intanto chiedo al signor McKee come se la passano la moglie e Matty». Andarono fin là passo passo, chiacchierando tutto il tempo, attraversarono la ferrovia, imboccarono la strada polverosa che portava alla falegnameria e si fermarono all'angolo a chiacchierare. C'era un carro a buoi che veniva verso il paese sulla strada da nord con un grosso carico di legname. Il conducente camminava accanto all'ultimo bue schioccando la frusta. Chiacchierando con Mary, Laura lo seguì distrattamente con gli occhi. Il carro avanzò fin quasi all'angolo dove erano loro due, poi all'improvviso i buoi scattarono avanti. Laura e Mary fecero un salto indietro. L'uomo gridò: «Oh, oh, di là!» Ma invece di entrare a sinistra nel cortile della falegnameria, i buoi svoltarono a destra dietro l'angolo. «Oh, dovete fare proprio di testa vostra?» urlò il conducente spazientito, ma anche ridendo. Poi si voltò a guardare le ragazze e loro due insieme esclamarono: «Al manzo Wilder!» Lui si levò il berretto con un inchino divertito e corse dietro ai buoi. «Non l'avevo riconosciuto senza i cavalli», disse Laura ridendo. «E poi hai visto com'è vestito?» fece Mary storcendo il naso con quella tuta da lavoro e gli scarponi. «Beh, starà dissodando il terreno, ecco perché ha i buoi. Non farebbe mai fare quel lavoro a Lady e Prince», disse Laura, più a se stessa che a Mary Power. «Eh sì. Lavorano tutti», osservò Mary. «Non si fa mai niente di divertente d'estate. Ma Nellie Olison sarà sempre lì a cercare di montare sul calesse dietro a quei due cavalli, col fatto che la concessione degli Olison è poco più a est di quella dei fratelli Wilder». «L'hai più vista?» chiese Laura. «No, non vedo mai nessuno. Le ragazze sono tutte in campagna, nelle fattorie di famiglia, e Cap fa trasporti tutti i giorni. Ben Woodworth lavora alla stazione e Frank Hawthorne non ha un minuto per scambiare due parole con nessuno, ora che suo padre lo ha fatto socio dell'azienda. Minnie e Arthur sono in campagna anche loro con la famiglia e te non ti vedevo dall'inizio di aprile». «Beh, avremo tempo quest'inverno e poi forse vengo a lavorare in paese se mamma è d'accordo», e cominciò a raccontare dell'offerta che aveva appena ricevuto. A un tratto si accorse che il sole era ormai alto, passò un attimo nell'ufficio della falegnameria, giusto per sentire che la signora McKee e Matty se la passavano abbastanza bene anche da sole, ma sentivano la sua mancanza. Poi salutò Mary e corse a casa. Si era trattenuta troppo in paese, sicché, anche camminando così veloce che quasi correva, arrivò quando il pranzo era già in tavola. «Oh, scusate il ritardo, ma sono successe tante cose». «Cioè?» disse mamma e Carrie chiese subito: «Che è successo?» Laura disse che aveva incontrato Mary Power e che era andata con lei a trovare il signor McKee. «Ho perso tempo a chiacchierare con Mary», riconobbe. «La mattina è volata, non mi ero accorta che fosse così tardi». Poi raccontò anche il resto. La signorina Bell vorrebbe che andassi a lavorare da lei. Che dici, ma? Beh, dico Laura che non so proprio se è il caso, esclamò mamma. Sei appena tornata a casa? Mi darebbe 50 centesimi al giorno, dalle 7 alle 5, se mi porto il pranzo. Equo, disse papà, ti porti il pranzo, ma esci un'ora prima. Ma sei tornata a casa per stare con Mary? Disse mamma. Lo so, ma sarò a casa mattina e sera e domenica tutto il giorno. Non so perché, ma mi sembra di dover guadagnare qualcosa. Succede così una volta che si è cominciato a vedere qualche soldo, disse papà. Sarebbero $3 la settimana, disse Laura, e avrei comunque il tempo di stare con Mary. Potremmo lo stesso fare tante cose insieme, vero Mary? Sì, e io posso fare le faccende di casa per te, disse Mary. Poi la domenica andremo a spasso. A proposito, disse papà, la chiesa nuova è finita, domani mattina ci andiamo tutti insieme. Oh, che bello! Non vedo l'ora di vederla. Sembra incredibile che ne abbiano già costruita un'altra, disse Mary. Già, ma è lì. Nuova e lustra, disse papà. Domani la vedremo. E lunedì dalla signorina Bell? Chiese Laura. D'accordo, vai pure. Puoi provare per qualche giorno, poi vedremo, disse mamma. Domenica mattina papà attaccò i cavalli e salirono tutti sul carro. La nuova chiesa era ampia e spaziosa, con lunghi banchi confortevoli. Mary l'apprezzò molto, soprattutto paragonandola alla piccola cappella che avevano all'università. Ma non conosceva nessuno di quelli che erano venuti al culto. Tornando a casa disse: C'era un mucchio di gente che non conosco. Ma la gente va e viene, disse papà. Non faccio tempo a fare conoscenza con uno che quello vende il diritto alla concessione e se ne va più a ovest. Oppure è la famiglia che non ce la fa stare qui e allora mollano tutto e tornano a est. I pochi che restano hanno tanto lavoro che non c'è il tempo per conoscersi. Poco importa, disse Mary. Tra non molto tornerò all'università. Là conosco tutti. Dopo pranzo, quando ebbero rigovernato, Carrie si mise a leggere il Youth Companion. Grace uscì a giocare coi micetti nel prato, davanti a casa. Mamma sedette a riposare sulla sua sedia a dondolo e papà andò a fare il sonnellino domenicale. Vieni, Mary, andiamo a fare una passeggiata, disse Laura. Si inoltrarono nella prateria verso sud. C'erano rose selvatiche dappertutto. Laura ne raccolse tante da riempire le braccia di Mary. Che meraviglia, disse lei. Mi sono mancate le viole di primavera, ma non c'è fiore più grazioso di queste rose selvatiche. Com'è bello essere di nuovo a casa, Laura, anche se non ci resterò a lungo. Abbiamo tempo fino a metà agosto, disse Laura, ma le rose non dureranno tanto. Cogliete le rose finché siete in tempo, cominciò Mary, e recitò a Laura la poesia di Stevenson. Poi le raccontò dei suoi studi in letteratura. Ho in mente di scrivere un libro un giorno, le confidò, ma poi rise. Avevo in mente anche di diventare maestra, invece sei tu che insegni a scuola, magari sarai tu anche a scrivere il libro. Io? Scrivere un libro? Rise Laura. Poi aggiunse allegramente: Ma che, io diventerò una vecchia maestra inacidita come la signorina Wilder. Il libro scrivitelo tu. Di che tratterà? Ma Mary, sentendo quel nome invece di rispondere, chiese: E dov'è quel ragazzo Wilder di cui mi ha scritto mamma? Mi aspettavo di vederlo un giorno o l'altro. Beh, immagino stia lavorando nella sua concessione, hanno tutti da fare d'estate, rispose Laura. Non disse di averlo incontrato in paese. Per qualche motivo che non avrebbe saputo spiegare, la metteva a disagio parlarne. Tornarono lentamente indietro e la casa si riempì del profumo delle rose. L'estate passò veloce. Ogni mattina Laura andava in paese col secchiello del pranzo. Spesso andava anche papà, che lavorava a giornata nei cantieri dei nuovi venuti. China sul lavoro di cucito nella bottega della signorina Bell, Laura sentiva picchiare i martelli e stridere le seghe via via che in paese sorgevano gli edifici nuovi. Lavorava tutto il giorno con un breve intervallo per mangiare il pasto freddo che si era portata da casa. Ogni tanto papà tornava con lei. A volte le dolevano le spalle e il collo per la posizione cui era stata costretta tante ore, ma il dolore spariva camminando e poi c'era la gioia di essere a casa la sera con Mary. A cena raccontava quello che aveva visto e sentito nella bottega della signorina Bell. Papà portava le notizie dal paese e poi mamma e le sorelle parlavano della loro giornata alla fattoria, con come cresceva il raccolto, a che punto erano con il guardaroba di Mary, quante uova aveva trovato Grace, come aveva fatto la vecchia gallina puntinata a nascondere il nido così bene che ora si era presentata con una fila di 20 pulcini. Una sera a cena mamma osservò che l'indomani era il 4 luglio. Che possiamo fare? Temo che non possiamo fare niente, Caroline. Non vedo come potremmo impedirlo, rispose papà fingendosi perfettamente serio. Charles, rise mamma. Andiamo alla festa in paese? Ci fu un momento di silenzio attorno al tavolo. Non capisco cosa dite quando parlate tutti insieme, disse mamma, anche lei fingendosi seria. Se vogliamo andare, bisogna pensarci stasera. Sono stata così presa dalla gioia di avere Mary qui che non ho preparato nulla per la festa. Ma il fatto stesso di essere qui è festa per me. Non ho bisogno di altro, disse Mary serenamente. Io vado in paese tutti i giorni, per me la festa è restare a casa, disse Laura. Poi aggiunse, però ci sono Carrie e Grace. Papà posò coltello e forchetta. Sai cosa facciamo, Caroline? Tu e le ragazze preparate qualcosa di buono da mangiare e domani mattina io vado in paese a prendere qualche caramella e i petardi. Faremo la festa del 4 luglio qui, a casa nostra, che ve ne pare? Prendine tante di caramelle, papà, disse subito Grace. E Carrie aggiunse: Sì, e anche tanti petardi. Il giorno dopo pranzarono in grande allegria e la sera tutti riconobbero che era stato molto più bello che se fossero andati in paese. Nel corso della giornata Laura pensò un paio di volte ad Almanzo Wyler, chissà se era venuto in paese coi suoi magnifici cavalli. E subito le venne in mente anche Nellie Olson. Ma se voleva rivederla, Almanzo sapeva dove trovarla, non toccava a lei fare qualcosa. E non aveva nessuna intenzione di fare nulla. L'estate finì troppo presto. L'ultima settimana di agosto Mary tornò all'università lasciando un grande vuoto in casa. Papà cominciò a mietere il grano e l'avena con la sua vecchia falce a rastrello. I campi erano ancora troppo piccoli perché potesse permettersi una mietitrice. Tagliò anche il mais quando fu il momento e lo raccolse in covoni nel campo. Era stanco e smagrito per il tanto lavoro in campagna e nei cantieri del paese e lo infastidiva vedersi sempre più gente attorno. Ne arrivava sempre di nuova e tutta la regione andava rapidamente popolandosi. Mi piacerebbe andare più a ovest, disse un giorno a mamma. Qui ormai non si respira più. Oh, Charles, non si respira con questa prateria sterminata intorno, esclamò mamma. Non ne potevo più di essere sballottata qua e là, e quando siamo venuti qui credevo che finalmente ci saremmo rimasti. Ma sì, Caroline, qui siamo e qui restiamo, non agitarti. Sono i miei piedi che fremono, lo sai. Comunque non ho ancora vinto la scommessa con lo zio Sam, e finché non l'avremo vinta resteremo qui. Devo potermela tenere questa terra. Laura sapeva che cosa pensava, perché aveva visto come guardava dalla soglia la vasta prateria ondulata che a ovest si perdeva all'orizzonte. Lui doveva restare lì, dove la terra ormai era tutta abitata e coltivata per il bene della sua famiglia. E allo stesso modo anche lei doveva tornare a insegnare, anche se detestava stare tutto il giorno rinchiusa tra le quattro pareti di una scuola. Puledri da domare. Venne ottobre. Le oche selvatiche avevano cominciato a migrare verso sud, quando papà caricò ancora una volta le loro masserizie sul carro e si trasferirono di nuovo in città. Anche le altre famiglie stavano rientrando dalla campagna e la scuola si andava riempiendo rapidamente. La maggior parte dei ragazzi grandi non frequentava più, alcuni si erano trasferiti definitivamente nelle campagne che avevano preso in concessione. Ben Woodworth lavorava alla stazione, Frank Hawthorne aveva la sua bottega, Cap Garland faceva il carrettiere e andava avanti e indietro tra le concessioni e il paese con carichi di fieno, carbone e qualsiasi altra cosa gli affidassero. Ma a scuola non bastavano i posti lo stesso perché erano arrivate tante famiglie, c'erano tanti bambini nuovi. I più piccoli dovevano stare in tre per banco e oramai era evidente a tutti che prima dell'inverno bisognava costruire una scuola più spaziosa. Un giorno, tornando a casa, Laura e Carrie trovarono una coppia seduta in soggiorno con mamma. L'uomo non lo conoscevano, ma Laura parve di avere già visto da qualche parte la giovane donna che la guardava seria in viso. Mamma sorrideva, non disse nulla mentre Laura e la sconosciuta si squadravano. Poi la donna sorrise e Laura la riconobbe. Era la cugina Alice, quella che era venuta con ella e Peter a passare il Natale da loro quando abitavano ancora nei grandi boschi. A quei tempi Alice e Mary erano le sorelle grandi, la compagna di giochi di Laura era Ella. Ora, salutando la cugina con un bacio, Laura chiese: «C'è anche Ella?» «No, lei e suo marito non sono potuti venire», disse Alice. «Ma vi ho portato un cugino che non conoscete ancora, mio marito, Arthur Whiting». Arthur era un giovanotto garbato, alto di statura, con capelli e occhi scuri. A Laura piacque, ma le parve sempre un po' estraneo, anche se rimase da loro una settimana. Alice era così simile a Mary che le sembrava appartenesse alla famiglia. Tornava a casa di corsa con Carrie per stare con lei. La sera facevano una scodella di popcorn o un dolce, ascoltavano papà suonare il violino e parlavano per ore dei tempi passati e dei progetti per il futuro. Il fratello di Arthur, Lee, aveva sposato Ella e le due famiglie avevano preso due concessioni contigue a una quarantina di miglia da lì. In primavera li avrebbe raggiunti anche Peter. «È passato tanto tempo da quando eravamo tutti insieme nei grandi boschi», disse Alice una sera, «e ora siamo di nuovo tutti insieme qui, in queste grandi praterie». «Sarebbe bello che venissero anche i tuoi genitori», disse mamma. «No, credo che resteranno nel Minnesota orientale», rispose Alice. «Sono arrivati fin lì, ma ci stanno bene, non vogliono più muoversi». «È strano», disse papà, «come la gente continui a spostarsi verso ovest. Qua giù è un po' come la cresta di un'onda, quando il fiume ingrossa. La gente va e viene, avanti e indietro, ma il grosso si sposta sempre più a ovest». Arthur e Alice si fermarono da loro per tutta la settimana. Sabato mattina, ben imbacuccati, con un ferro caldo sotto i piedi e qualche patata bollente in tasca, partirono con la loro slitta per tornare a casa. Erano 40 miglia di viaggio. «Salutami tanto, Ella», disse Laura, commiatandosi da Alice con un bacio. Erano giornate limpide e fredde, con temperature sotto lo zero, una gran quantità di neve e mai una bufera, il tempo ideale per le corse in slitta. Ma non si erano più viste le comitive dell'inverno precedente, quando uscivano tutti insieme in allegria, forse perché i ragazzi facevano lavorare i cavalli durante la settimana e non volevano stancarli troppo. Ogni tanto Laura vedeva Almanzo e Cap da lontano, stavano scozzonando due puledri da attacco e a quanto pareva avevano il loro da fare. Una domenica pomeriggio Laura li vide passare avanti e indietro più volte. Sulla slitta o c'era Cap o c'era Almanzo e tutti e due facevano fatica a tenere i puledri che tiravano con tutte le loro forze cercando di rompere al galoppo. Papà alzò gli occhi dal giornale e disse: uno di quei due prima o poi si romperà l'osso del collo. Non c'è nessuno in paese che vorrebbe avere a che fare con quella pariglia». Laura stava scrivendo a Mary. Si fermò un momento a pensare che Almanzo e Cap avevano corso rischi che nessun altro era disposto a correre, il giorno in cui erano andati a prendere il frumento per il paese che moriva di fame. Aveva appena finito la lettera e stava infilando il foglio nella busta quando bussarono alla porta. Andò ad aprire e trovò Cap Garland sulla soglia, con quel sorriso contagioso che gli illuminava tutta la faccia. Disse: «Ti va di fare un giro con quei due puledri?» Laura ebbe un attimo di sgomento. Cap le era simpatico, ma non voleva che la invitasse ad andare in slitta. Le attraversò la mente il pensiero di Mary Power, poi di Almanzo, e restò lì senza sapere che rispondere. Ma Cap stava dicendo: «Wilder ha mandato me, perché è impossibile tener fermi quei puledri. Se ti va, passa a prenderti tra un momento». «Oh, sì, certo!» esclamò Laura. «Mi preparo. Entri?» «No, grazie. Vado a dirglielo», rispose Cap. Laura si vestì in fretta e furia, ma quando corse fuori, i puledri erano già lì che sbuffavano e scalpitavano. Almanzo aveva bisogno di tutte e due le mani per tenerli. «Non posso aiutarti, scusami», disse mentre lei saliva sulla slitta. Come fu seduta, partirono di volata. Non c'erano altre slitte in giro, sicché i puledri avevano la strada libera e andavano come il vento, cercando di liberarsi dalla salda presa di Almanzo. Quando uscirono dal paese, ruppero al galoppo cercando di superarsi l'un l'altro. Laura se la godeva un mondo, guardava le zampe che correvano, le orecchie appiattite indietro e pensava a quando con sua cugina Lena lanciavano i pony al galoppo sfrenato nella prateria. Era stato tanto tempo prima. Il vento ghiacciato le frustava il viso e grumi di neve schizzavano le coperte. Poi i puledri tirarono su la testa, aguzzarono le orecchie e accettarono di rallentare. Almanzo li fece girare e tornarono indietro. Poi la guardò incuriosito. Lo sai che non c'è un uomo in paese, tranne Cap Garland, che accetterebbe di salire dietro questi due puledri? Sì, è quello che ha detto papà. E allora perché tu ci sei venuta? Beh, pensavo che tu sei capace di tenerli, rispose Laura, e chiese a sua volta, come mai non hai attaccato Lady e Prince? Voglio venderli, questi due, ma bisogna prima addestrarli all'attacco, rispose Almanzo. Laura non disse altro. I puledri stavano cercando di scappare di nuovo. Sapevano che tornavano indietro e volevano correre. Ci voleva tutta l'attenzione e la forza di Almanzo per costringerli a tenere quel trotto veloce, sempre sul punto di rompere in galoppo. Main Street sfilò via in un'unica macchia confusa e quando furono di nuovo nella prateria, Almanzo li fece rallentare e tornarono indietro. Laura scoppiò a ridere. Se addestrarli vuol dire questo, sono ben disposta a dare una mano. Non scambiarono molte altre parole. Passò un'ora, il sole stava tramontando e Almanzo fermò la slitta perché Laura potesse scendere davanti a casa. Vengo a prenderti domenica, disse, mentre i puledri schizzavano via così veloci che lei non ebbe neppure il tempo di rispondere. Mi spaventa saperti dietro quei due cavalli, disse mamma quando entrò in casa. Papà alzò gli occhi dal giornale. Wilder sta cercando di farti fuori, evidentemente, ma mi pare che tu ti diverta a giudicare da come ti brillano gli occhi. Da quel giorno, Almanzo venne a prenderla tutte le domeniche, ma prima, per buona parte del pomeriggio, lui e Cap facevano correre i puledri per stancarli. E nonostante tutto quello che Laura poteva dire, non ci fu verso di indurlo a portarla sulla slitta finché i puledri erano ancora freschi di forze. Quell'anno, alla Chiesa Nuova ci fu un albero di Natale. Laura e Carrie ne avevano già visto uno anni prima in Minnesota, ma per Grace era una novità. Laura avrebbe ricordato come la cosa più bella di quel Natale il visetto colmo di stupore e meraviglia con cui Grace guardava l'albero con tutte le candeline accese, i sacchettini colorati pieni di dolciumi, i pacchetti dei doni appesi ai rami. Ma mentre aspettava che consegnassero a Grace il pacco con la bambola che le avevano comperato per Natale, anche Laura, a sorpresa, ricevette un pacchetto. Ne fu così stupita che lì per lì pensò ci fosse un errore. Dentro c'era un astuccio di pelle nera foderato di seta azzurra e sull'azzurro spiccavano bianchissimi una spazzola e un pettine col dorso d'avorio. Laura guardò di nuovo la carta del pacchetto. Sì, c'era proprio il suo nome, in una grafia che non conosceva. Da chi può venire questo regalo, ma? Anche papà venne a guardare, aveva uno scintillio negli occhi. Bah, da chi viene non potrei giurarlo, disse, ma ho visto Almanzo Wilder comprare quell'astuccio da Bradley. E sorrise allo stupore di Laura.